Oh, ma poi come è andata a finire per quel fatto? Ah, è successo che... Exo, cospa. Oh, ma dove lo culo? Hey, Naz. Ciao, Agni. Hola. Oh, ma hai sentito l'ultimo pezzo di Fer? Sa, a me da di caos. Elio, che cazzo dici? Non è caos, è necro. Oh, a me da più di caos. Oh, Fer. Oh, Agni. Sta a posto. Sì. Ma che si dice? Niente. Di che stavate parlando? Niente. Sicuri? Sì. Ma non sai cosa vi dico? Più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Pensavi che fossi sparito, finito? Non ho capito, son partito, che mi cazzo imbottito. Prima da esplosivo, esclusivo. Più morto che vivo, vivo solo se scrivo. Scrivo solo se uccido. Ho lo stilo, più stilo di una stilo che si scatta sulla carcassa di un tuo amico che sicuro ti ha tradito. Siamo zombie alla Resident Evil. I tuoi soldi dentro il cazzo di live non li prendo, mi fanno schifo. Ti schifo se mi passi o mi guardi. E se mi guardi poi diventi di pietra come Medusa e i suoi sguardi. Se parti ti spacco, se parto ti schiaccio. Voglio il tuo corpo putrefatto, passarmi di fianco. È uno scappo, al massimo rincorro. Mi parlate, nascosti dietro maschere. Come Zorro sono sketch, sti giochi d'attrice. Per fare la differenza nella scena vuoi una calcolatrice. Più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Quanto scandalo come Topless nel 60. Se la gallina canta, dopo sì si mangia. Sputo veleno sopra il beat come serpente sonali. Tu prepari il pagaglio e metti dentro anche i tuoi sogni. Se siete degni preparatevi. Se siete in tanti non mi fermate, al massimo fermatevi. Se ho stile in tavola come kebab che fa. Se qua si sa che Salem sia ad alta elettricità. Il mio flow fa blow blow e quindi è magia. Il tuo show fa show show e quindi vai via. Dicono copio da caso, ora da necro come tanti. Ora sulla base reggae dimmi che copio da farle. Impari questo stile che entra e ti fa male. Siete bravi perché tu pari e non ti fai sgamare. Ma suave arrivo primo come il vette miei compari. E son contento se arrivo ultimo in una competition di pezzi commerciali. Quindi tu più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Non sono il tipo dei tuoi sogni ma al massimo dei tuoi incubi. La mia musica è leggera tanto che spacchi di fani. Faccio un massacro con la biro nelle tue serate house. Se entri nel mio space si pietrifica il tuo mouse. Mi piace troppo l'hardcore, guardo film solo gore. Nella mia vita niente amor, niente peace and love. Non sono il tipo da carezze, da baci, niente abbracci da froci. Rispetto solo i miei amici, sono gli unici. Non siamo 11, forse un po' di meno. Ma ognuno vale doppio come in 300 di guerriero. Vedo troppa invidia che esplode più di bombe. Chi parla per bocca degli altri con la sua fa solo pompe. Mentalità ristrette, rinchiuse più di un'immagine. Mentalità più chiuse delle gambe di una vergine. Ogni nodo arriva al pettine anche se non hai capelli. E una va per me, la prima per i miei fratelli. Tu più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Più parli di me e più son contento. Più parli di me e più mi fomento. Più parli di me e più mi accontento di ciò che non va bene per te in questo momento. Oh Fer. Oh Fer Puca. Che c'è? Aia, oh, ma sei cretino. Mo mi avete scassati i coglioni. Mo mi dite che copio da caos. Mo mi dite che copio da necro. Oh, pensate, tu devi imparare a fare le basi. E come le faccio le basi? Tu fai basi troppo sperimentali. Sperimentali? Devi fare le basi come Premiere. Come Premiere.